Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. Buon vespero, saggi compagni. Buon vespero. State accomodi per battezzare questo locale. Stiamo accomodi. A nome dei nostri vecchi antenati, i tre cavalieri spagnoli Osso, Mastrosso, Carcagnosso, battezzo questo locale. Se prima lo riconoscevo per un locale che bazzicavano sbirri e infami, da ora poi lo riconosco per un luogo sacro, santo e inviolabile dove può fermare e sformare questo onorato corpo di società. Buon vespero. Buon vespero. Siete conformi? Siamo conformi. Su che cosa? Sulle regole di società. Nel nome dell'Arcangelo Gabriele, di Santa Elisabetta, circolo di società è formato. Ciò che si dice in questo circolo ha forma di ferro di cavallo, qua si dice e qua rimane. Chi parla fuori da questo luogo è dichiarato tragediatore a suo carico ed a discarico di questa società. Ciao a tutti, bentrovati ad una nuova puntata di Lucciole nelle Tenebre. Io sono Flavia. Io sono Stefano. Eleonora. Valentina. Quello che avete appena sentito è il giuramento di formazione della società nell'Andrangheta e serve appunto per introdurvi quello che oggi abbiamo deciso di raccontarvi. Oggi parliamo dei lugubri meandri delle chiese nere, ovvero i rapporti fra la mafia, la religione e il clero e i clericali. Allora, cominciamo a dire che tra la mafia e la chiesa ci sono sempre stati legami molto forti, perché la mafia ha ripreso dalla chiesa tantissime cose, ha ripreso i suoi riti, le sue credenze, la sua gerarchia molto forte e strutturata. Abbiamo in tutte le associazioni, in tutte le quattro più importanti associazioni mafiose, troviamo fenomeni di battesimo, che sono quindi chiaramente ripresi dalla chiesa per far entrare nell'associazione nuovi affiliati. Tra questi battesimi troviamo per esempio quello dell'Andrangheta, che consiste generalmente nel bruciare l'immagine dell'Arcangelo Michele. E le mani fanno prove d'ammissione, non lo so, salta la corda. Prove d'ammissione? No, non proprio, a volte. Peccato. In che senso peccato? Vorresti essere una mafiosa per entrare? No, vorrei vedere le vesciche sui piedi di un mafioso che corre sui carboni ardenti per entrare nella cosca, non so. Glielo possiamo proporre come nuovo rito la prossima volta. Comunque, vediamo che ci sono tanti legami, pensando sempre all'Andrangheta, ci sono anche nei nomi, ritroviamo dei chiari riferimenti alla chiesa. Per esempio l'Andrangheta si divide in due, nella società maggiore e nella società minore. La società maggiore è chiamata Santa e quelli che ne fanno parte sono chiamati Santisti e Evangelisti. La chiesa ha quindi dato, diciamo, ispirazione in buona parte alla mafia, che ne ha utilizzato parte dei simbolismi. Ad esempio possiamo parlare della pungiuta. La pungiuta sarebbe il rito di iniziazione di Cosa Nostra che Buscetta ha per la prima volta svelato ai giudici del maxi processo, descrivendo il rito di iniziazione proprio di Cosa Nostra, che prevede la puntura, diciamo, del dito dell'iniziato e che imbratta col sangue appunto della ferita un'immagine sacra a cui verrà dato fuoco nelle mani dell'iniziato, che dovrà pronunciare, diciamo, le parole simbolo: possa io bruciare come questa santina se vengo meno al mio giuramento a Cosa Nostra, qualcosa del genere. Insomma, vediamo come il simbolo, il santo, la santina che viene bruciata praticamente sia l'inizio della vita di un mafioso. Ti vedo ferrata. Che cosa stai insinuando? No, non lo so cosa stai insinuando tu, però comunque ti vedo molto ferrata, complimenti. Da dove hai imparato tutte queste cose, Flavia? Dici? Da amici, da uomini d'onore. Senti, ora vuoi fare come Ferrara, che dice che l'essenza dei siciliani, della sicilianità è la mafia, e per quanto sono siciliana vuoi insinuare certe cose? Non te lo permetto, caro. Basta, stop, piuttosto ascoltiamoci della buona musica, va? Sì, cosa vi metto? Donna ce l'ho d'onore, io, cosa ce ti l'ho metto? Io, ce l'ho io. C'è una canzone di una mia compaesana, Rosa Balistreri, che sembra fatta apposta per questa puntata. Si intitola Mafia e Parrini. La mafia Maria e i barrini si dettero la mano. Povero cittadino, povero paesano, e mafia e barrini si dettero la mano. E mafia e barrini si dettero la mano. La mafia e i barrini, eterno sangue suga, povero cittadino, povero paesano, e mafia e barrini si dettero la mano, e mafia e barrini si dettero la mano. Uno isa la croce, la voce fonda spara, uno minaccia un faro, ora vediamo un po' di cambiare punto di vista e cerchiamo di analizzare il complicato rapporto che c'è tra mafia, religione e politica. Vai, Ste! Parliamo di un rapporto difficile, ovvero il rapporto Stato, Chiesa e mafia, che si racimola tutto nella Prima Repubblica, nella Democrazia Cristiana. Con la fine della guerra, in pratica, gli americani volevano avere un appoggio affinché il comunismo non vincesse nella penisola italiana, perché c'era stata la divisione tra blocco occidentale e blocco orientale, e di conseguenza ha dato una serie di poteri e di finanziamenti alla Democrazia Cristiana affinché questo non accadesse. Vecchi furbacchioni. Questi vecchi furbacchioni, tra parentesi, nel sud Italia, per radicarsi meglio nel territorio, si sono uniti alle stesse organizzazioni criminali. Ma va, non mi dire. E se vogliamo proprio mettere puntini sulle i, ci sono alcuni personaggini che sono particolarmente emblematici di questa cosa. Due su tutti, Salvo Lima e il grande statista. Il grande statista. Ragazzi, che è buonanima Andreotti. Ma non si parla male dei morti. Ma non si, come non si parla male dei morti? Questi sono dati accertati fino al 1980. Ha trattenuto rapporti Stiamo mafiosi. Attenti che adesso ci risuscita. Successivamente no. Stai attento che adesso non risuscita. Sono passati tre giorni, scusate. Non sei elegante. Ma lui dice che non è elegante. Non è elegante, vabbè, non ma è lui elegante. Non è come Gesù, lui resuscita quando vuole. Accidenti, dopo. Comunque, stiamo degenerando. Questa puntata probabilmente ci calunnieranno e ci denunceranno, ma continuiamo su questa falsa riga, nel senso che comunque sia la comunità religiosa ha unito la sfera della politica e la sfera della mafia attorno alla figura del cristianesimo, sostanzialmente. E questo è un fenomeno sociologico anche abbastanza interessante, per la stessa motivazione di prima. Fondamentalmente, tramite il canale della Chiesa, la Democrazia Cristiana è riuscita a stringere rapporti con la mafia stessa e con l'andrangheta, con Cosa Nostra, con la Camorra. Anche perché l'occorrenza non è libera, facciamo anche i sociologi, raccomando. No, comunque anche c'è da dire che legarsi alla Chiesa vuol dire anche legarsi a una certa tradizione popolare, e questo ovviamente aiuta a dare un consenso, a trovare consensi per l'appunto fondamentali all'interno del gioco politico nazionale, che per la Democrazia Cristiana era fondamentale per mantenere un ordine nonostante ci fossero numerosi correnti, numerose fazioni che si susseguivano all'interno degli stessi governi, si ricadevano, riformavano, ricadevano, riformavano. Questa cosa viene meno nel 1991, nel momento in cui Salvo Lima viene ammazzato. Nel momento in cui Salvo Lima viene ammazzato, questo è un segnale forte da parte della mafia nei confronti della Democrazia Cristiana, che loro hanno perso i consensi della base siciliana, gestita appunto dall'organizzazione criminale. Quindi da quel momento in poi il sistema della Democrazia Cristiana va in crisi, perché loro stavano cominciando ad appoggiare il nuovo Partito Socialista Italiano guidato da Bettino Craxi. Solo che anche quello lì è venuto meno, è stato stroncato a seguito dello scandalo di Mani Pulite. E chi ne è venuto fuori? Chi è venuto fuori? L'Italia è il paese che amo, è qui che ho imparato l'espressione della mia libertà, ma continuiamo e... Comunque vogliamo dire che Stefano ha voluto fare questa puntata per concentrarsi su un paio di figure a caso della politica italiana, due. Beh. Anche perché torniamo sempre qui. Sì, si gira sempre attorno a quelle due figure misteriosamente, non è colpa mia ragazzi, cioè che cosa ci posso fare? Beh, comunque adesso possiamo andare avanti e lanciare la prossima canzone dopo questo cazzeggio in libertà. La lancio io! Vai Vale, vai! Cos'è? Qual è? Home! Adesso ci ascolto, è sulle note di Home di Edward Sharp. Buon ascolto! Che passi da gigante questa ragazza! Impara l'inglese ogni puntata! Vedrete che B1 che darò tra due mesi. Uno, oddio! Dai, vai! Nearly broke your ass and you were bleeding all over the place. yes, I am home. Home is when I'm alone with you. Desidero farle un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. E quella che figuriamo anche noi. Che per il compito che vi aspetta, mi deve scusare, signor Presidente, la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore, che lo raccomandò a Mosè quando deve giudicare che ci sia la massima serenità, che è la base fondamentale. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita. Questa che appena abbiamo sentito è la dichiarazione che fece Michele Greco, detto il Papa, prima, diciamo, della dimissione in Camera di Consiglio, alla fine del maxi processo, primo punto della sentenza finale. Michele Greco veniva chiamato il Papa. Quando venne chiamato a spiegare questo suo soprannome, gli disse: «Mi chiamano il Papa, ma io non posso paragonarmi a loro, neanche a quello attuale, anche se per la mia fede e la mia coscienza pulita posso essere uguale, se non superiore a loro». È una figura emblematica nella storia, diciamo, dei capi mafia, Michele Greco, che venne chiamato il Papa per il suo ruolo di mediatore all'interno delle famiglie. E vediamo come non fu un nome scelto, un soprannome scelto a caso. Vediamo come il Papa, capo, diciamo, della Chiesa, autorità, diciamo, parallela rispetto allo Stato, venne usata per indicare uno fra i personaggi principali delle famiglie mafiose, non a caso, appunto. Insomma, vediamo che tutti questi mafiosi sono brave pecorelle del Signore. Anche nel rifugio di Provenzano sono state trovate moltissime immagini sacre e molti santini, e i suoi pizzini erano intrisi di una simbologia e di parole prese direttamente dalla Bibbia e dal Vangelo. E anche Totò Riina, quando fu inviato all'Asinara, si portò dietro moltissimi santini. Comunque, secondo me, la religiosità di questi individui non è nemmeno da... non c'è nemmeno così tanto da dubitarne, cioè secondo me sono veramente fermamente convinti della loro fede. Alcuni, come Michele Greco, che disse che trovò conforto nella Bibbia, ci credono davvero magari a queste cose. Boh, allora c'è da chiedersi allora perché dall'altra parte la Chiesa abbia rinunciato alla sua funzione di indirizzo etico e abbia preferito celebrare i matrimoni, i battesimi e le cresime dei mafiosi, celebrare funerali in pompa magna. Ma questo è un paradosso, è come il discorso di dare la comunione, di non dare la comunione ai divorziati. Su quale principio non la dai a una persona che ha voluto separarsi dalla propria coniuge e dai la comunione a un mafioso? Su quale principio? E su questo proposito voglio raccontarvi due storie di due personaggi un po' particolari. La prima risale agli anni 80 e si tratta di frate Giacinto, soprannominato appunto frate Lupara per i suoi collegamenti conosciuti con l'organizzazione mafiosa e con Stefano Bontade. Ecco, lui era un frate un po' particolare, perché venne accusato di aver protetto la latitanza di Luciano Ligio, e quando si fece la perquisizione nella sua cella furono trovati milioni di contanti, armi, eccetera. Quindi forse un prete proprio... era un prete un po' particolare, no? La seconda è ancora più particolare, perché è la storia di Don Agostino Coppola, nonché cugino del capo di Cosa Nostra americana Frank Coppola, che addirittura celebrò il matrimonio di Totò Riina con la moglie Ninetta Bagarella. e era legatissimo a Luciano Ligio e addirittura fece da mediatore nel sequestro del figlio del conte Luciano Cassina, e quando nel 74 venne arrestato, nella sua casa vennero trovati 5 milioni provenienti da un sequestro di persona. Quando poi venne scomunicato dalla Chiesa, si sa che quando uscì dal carcere si sposò addirittura con una donna proveniente dalla famiglia mafiosa dei Caruana. Quindi alla faccia della coerenza religiosa, insomma. Uomini, casa e chiesa, come si suol dire. Chissà cosa fanno in mezzo, però, Beh, il nostro tempo a disposizione è scaduto, noi vi che salutiamo. Ma non abbiamo altre invettive da fare. No, però abbiamo una simpatica canzone con cui lasciargli, ovvero Nostra Signora dell'Ipocrisia di Francesco Guccini. Ma dai, chiudiamola così. Dai. Ciao ragazzi. Ciao. Fine della baldoria, c'era nell'aria un silenzio strano, qualcuno ragliava con meno boria e qualcun altro grugniva piano. Alle sfilate degli stilisti si trasgrediva con meno allegria, ed in quei visi sazi e stravisti pulsava un'ombra di malattia. Un artigiano di scoop forzati scrisse che Weimar già si scorgeva, e fra biscotti sponsorizzati videro un anchorman che piangeva. Poi la nebbia discese a banchi ed il barometro segnò tempesta. Ci risvegliammo più vecchi e stanchi, amari in bocca, cerchio alla testa. Il mercoledì delle ceneri ci confessarono bene o male che la festa è ormai finita, ormai lontano il carnevale. E proclamarono penitenze, in giro andarono col cilicio ruttando austeri. Chi vuol pazienza sempre adelante va con cuisio. E faceva voti con faccia scaltra Nostra Signora dell'Ipocrisia, perché una mano lavasse l'altra, tutti colpevoli e così sia. E minacciosi ed un po' pregando, incenso sparso al loro Dio, sempre accusando, sempre cercando, irresponsabile non certo io. Dai puttanieri e diversi pollici, dai furbi del chi ha dato ha dato, ed echeggiarono tutte le sere come rintocchi schioccanti a morto. Amen mia culpa e miserere, ma neanche un cane che sia risorto. E i cavalieri di Tigre Ore e i trombettieri senza ritegno inamidarono un nuovo pudore, misero a lucido un nuovo sdegno. Andò le prime con casto lusso e qui spagarono sopra i milioni, e in pubblico si linciò il riflusso per farci ridiventare buoni. Domenica fu una stagione davvero cupa, quel lungo mese della quaresima, rise la iena, ululò la lupa, stelle, comete ed altri prodigi facilitarono le conversioni, mulini bianchi tornarono grigi, candidi agnelli, certi ex leoni. Soltanto i pochi che si incazzarono dissero che era usato passo, fatto dai soliti che ci marciavano per poi rimetterlo sempre là in basso. Poi tutto tacque, vinse ragione, si placò il cielo, si posò il mare, solo qualcuno in resurrezione, piano in silenzio. Torno a pensare.